Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia. Cari amici, ascoltiamo ora il versetto 91 dalla sura An-Nahl, le api. Seguirà la traduzione in lingua italiana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awfu bi'ahdillahi idha 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaykum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Obbedite al patto di Allah dopo che l'avete accettato, e non mancate ai giuramenti solenni che avete prestato, chiamando Allah garante contro voi stessi. In verità Allah conosce il vostro agire. Salve gentili ascoltatori, vi informiamo che i programmi in lingua italiana della Repubblica Islamica dell'Iran vengono trasmessi tutti i giorni dalle 6.30 alle 7.30 ora di Greenwich, sempre in onde corte sulle seguenti frequenze. 15.480 kHz pari a 19 metri, 17.660 kHz pari a 16 metri. La replica per Teheran su FM va in onda tutti i giorni dalle 14 alle 15 ora locale sulle 99.5 MHz. E il programma serale va in onda sempre su onde corte dalle 19.30 alle 20 ora di Greenwich sulle seguenti frequenze: 7.315 kHz pari a 41 metri e 9.755 kHz pari a 31 metri. Questo programma è stato ideato per l'Italia e per l'Europa centro-occidentale. Buongiorno, buona domenica cari amici, vi parla Sohel dalla voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Insieme ai miei colleghi di Radio Italia vi presenteremo la programmazione di oggi, domenica 12 maggio 2013, in apertura ascolterete il radiogiornale accompagnato da una breve nota di commento sugli attentati ieri in Turchia. Poi sarà la volta della rassegna stampa per finire due programmi. Il primo, una presentazione radiofonica della rubrica Dalla culla dell'Islam, e per finire noi radioascoltatori. Adesso vi diamo proprio spazio, diamo spazio alle notizie, vi invitiamo a seguirci. Erano terminate le registrazioni dei candidati per le presidenziali. Siria, sì dell'Iran al piano della Russia per conferenza internazionale. Turchia, manifestanti dicono ad Erdogan di dimettersi. Musulmani del mondo condannano aggressione di Israele alla Siria. E nucleare, Iran replica alla Francia. È terminata ieri l'operazione delle registrazioni degli aspiranti candidati per le prossime elezioni presidenziali dell'Iran, lo ha annunciato il ministro dell'interno Mostafa Mohammad Najjar. Un certo numero di eminenti funzionari iraniani si sono registrati per le elezioni, tra cui l'ex presidente nonché attuale capo del Consiglio per il discernimento di Stato Akbar Hashemi Rafsanjani, e il vicepresidente dell'attuale presidente Spandior Rahim Mashai, l'ex comandante dei Pasdaran Mohsen Rezai ed ex primo vicepresidente candidato riformista Mohammad Reza Aref, principalisti Ghulam Ali Haddad Adel Ali Reza Zakani, il segretario del Supremo Consiglio iraniano per la sicurezza nazionale Said Jalili, ex ministro degli esteri Ali Akbar Velayati, il sindaco di Teheran Mohammad Baqir Qalibaf e il vicepresidente del Majlis Mohammad Hassan Abu Torabi Fard. Questi sono tra gli altri aspiranti alle presidenziali del prossimo giugno in Iran. La Repubblica Islamica ha espresso soddisfazione per la proposta della Russia di organizzare a Ginevra una conferenza internazionale sulla Siria per mettere fine al conflitto in questo paese. Siamo più che felici di prendervi parte in qualunque modo possibile e ci aspettiamo di far parte del processo per riportare la pace e migliori condizioni di vita per il popolo siriano, ha detto il vicepresidente iraniano Mohammad Javad Mohammadizadeh, riferendosi al tentativo di Mosca, sostenuto dagli Stati Uniti, di organizzare una Ginevra 2. Decine di persone sono scese per le strade della città di Reyhanli, nella provincia di Hatay, chiedendo al premier Recep Erdogan di dimettersi a seguito degli attentati di ieri appunto a Reyhanli, al confine con la Siria, che hanno provocato almeno 40 morti. Per i dimostranti queste violenze sono dovute alla politica dell'amministrazione Erdogan in merito alla crisi siriana. Una simile manifestazione ha avuto luogo ad Ankara, dove una decina di persone hanno scandito slogan contro Erdogan e il suo ministro degli esteri Davutoglu. Il governo turco è stato oggetto delle più dure critiche da parte del presidente siriano Bashar al-Assad per il sostegno che Ankara dà ai gruppi armati antigovernativi in Siria. Erdogan è criticato anche all'interno del suo paese. Partiti di opposizione turchi hanno biasimato le sue ingerenze negli affari interni della Siria. Migliaia di musulmani in tutto il mondo hanno condannato le recenti aggressioni israeliane contro la Siria, chiedendo un'azione globale per affrontare le minacce dell'entità sionista. Lo riferisce l'IRI. Proteste hanno avuto luogo nel Kashmir indiano e al Cairo, con dei dimostranti che hanno lanciato slogan contro Israele in quanto principale nemico del mondo islamico. A Teheran i fedeli sono scesi in piazza e hanno bruciato bandiere israeliane ed americane. Il portavoce agli esteri iraniano Rami Mehmanparast ha respinto le accuse del capo della diplomazia francese circa le presunte ambizioni di Teheran nel campo nucleare e le ha definito esempio lampante dell'ostilità di Parigi circa il programma nucleare iraniano e fuorviare l'attenzione dell'opinione pubblica francese dalle difficoltà attuali. In Pakistan la Lega musulmana dell'ex primo ministro Nawaz Sharif ha vinto le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea nazionale funestate da attentati e episodi di violenza, molte d'opera dei talebani che hanno provocato la morte di almeno 40 persone. Parlando ai suoi sostenitori alla urna, Nawaz Sharif ha ringraziato i pakistani per la fiducia riposta in lui. È una piazza spaccata tra contestatori sostenitori dell'ex premier italiano Silvio Berlusconi a Brescia, da una parte le urla vergogna, buffone, mafioso, dall'altra le grida Silvio dei militanti PDL accorsi a sostegno del loro leader sceso in piazza a Brescia appunto per una manifestazione contro l'uso politico della giustizia. Contestazioni che hanno anticipato il comizio del cavaliere che hanno proseguito anche al termine con scambi di insulti, lancio reciproco di bandiere, quindi ha intervenuto la polizia. È tutta per la nostra edizione del mattino. Grazie per l'attenzione, a tra poco con il commento di oggi. Attentato in Turchia e se Ankara cercasse il pretesto per allargare il conflitto in Siria? Sono state due autobombe a esplodere nella città turca di Reyhanlı, stando al Ministero degli Interni di Ankara, una nei pressi del municipio e l'altra a ridosso dell'ufficio delle poste. Nel frattempo il bilancio è già salito a 40 morti e diversi feriti. Il premier Erdogan ha detto che il duplice attentato potrebbe essere legato all'intesa con il PKK di Abdullah Öcalan, oppure alle vicende siriane. Il capo della diplomazia turca Davutoğlu ha affermato in modo minaccioso che nessuno deve osare sfidare la pazienza di Ankara e i servizi di intelligence turchi stabiliranno chi sia responsabile dei due attacchi terroristici. Appena la Turchia ha insinuato di nuovo che l'esercito siriano abbia fatto ricorso all'uso di armi chimiche, accusa già sollevata da Londra, Washington, Tel Aviv e dalle bande terroristiche smentite da Carla Del Ponte della Commissione ONU sulla Siria, Erdogan è arrivato a dichiarare che se gli Stati Uniti decidessero di istituire una zona di non sorvolo sul Siria, intaccando la sovranità nazionale siriana, lui appoggerebbe la decisione. A questo punto, perché non pensare che le due autobombe di ieri possono essere proprio state opera di un regime come quello turco, apertamente schierato al fianco dei gruppi terroristici che seminano la violenza in Siria e che farebbero l'impossibile per trascinare nella guerra l'intero apparato militare occidentale? Non va dimenticato che Erdogan vedrà Barack Obama tra 5 giorni. Salve cari amici, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi domenica 12 maggio 2013. Le affermazioni della guida suprema iraniana sulla prima pagina del giornale Kayhan, la necessità di rafforzare il nucleo familiare attraverso proprio il rispetto verso la posizione della donna, un proprio invito da parte del Somma Ayatollah Khamenei alle donne iraniane di ritrovarsi la loro vera identità, e anche un invito alla società, ai politici e ai governanti di fare il possibile per appunto rafforzare la posizione della donna, anche migliorare e fare sì che le donne iraniane possano ritrovare e avere tutti i diritti previsti dalla Costituzione. Giornale Resalat, manifestazione in Giordania, Centinaia di giordani hanno manifestato chiedendo l'espulsione dell'ambasciatore israeliano. Le manifestazioni di ieri sono state appunto organizzate in segno di protesta contro l'ultimo assalto israeliano alla moschea di Al-Aqsa in Gerusalemme. Il giornale Hamshahri, Human Rights Watch, ha espresso forte preoccupazione per la situazione dei prigionieri politici in Arabia Saudita, in particolar modo la situazione, le condizioni dell'Ayatollah Namr e l'Ayatollah religioso sciita, che è stato arrestato e messo in carcere nel 2012. Giornale Jome Jam protesta anche in Bahrain contro il regime filoamericano Al Khalifa, contro le torture inflitte ai detenuti politici. Giornale Hamshahri: Putin dice a David Cameron, premier britannico, la crisi in Siria non ha una soluzione militare. Poi, giornale Jumhuriya Islami, proteste contro le ingerenze del Qatar da parte in Libia e in Tunisia, hanno dato il fuoco alla bandiera del Regno del Golfo Persico. Qatar è proprio sotto accusa per essere complice nelle politiche israeliane nella regione, per essere anche un paese che adesso sta fornendo aiuti ai ribelli antigovernativi in Siria e altri paesi arabi. Manifestazione anche in Corea del Sud contro appunto l'arrivo di portaerei Nimitz americano. La gente della Corea del Sud hanno condannato anche le prossime esercitazioni militari di Washington, Corea del Sud. E per finire, il giornale Farid Dagan, citando un quotidiano israeliano, Ahrnut, dice che Israele deve prendere sul serio le ultime minacce di Seyed Hassan Nasrallah, perché lui è uno dei capi regionali che è proprio quando dice una cosa dobbiamo prendere sul serio, perché probabilmente ci sarà proprio un'azione da parte del movimento della resistenza libanese. Il giornale si riferiva alle parole del leader di Hezbollah quando ha detto che il suo movimento è pronto a combattere al fianco della Siria per riprendere le alture occupate del Golan. È tutta per la nostra rassegna stampa di oggi, grazie per l'attenzione. A risentirci. Radio Italia IRIP presenta. Dalla culla dell'Islam. Radio Italia IRIP, la radio in lingua italiana dell'Iran, ha l'onore di presentarvi per la prima volta una rappresentazione radiofonica dedicata alla storia della religione islamica. Questa produzione radiofonica è un lavoro dello staff di Radio Italia IRIB. Regia a cura di Habib. Testi a cura di Shima. Direzione degli speaker Davut. Iniziamo come sempre nel nome di Dio e salutiamo tutti i cari ascoltatori. Come ben ricorderete, vi abbiamo già raccontato che negli anni precedenti alla nascita del profeta dell'Islam, la pace sia con lui, per gli arabi avere figli maschi veniva considerato un grande onore. Quindi chi aveva più figli maschi veniva rispettato di più. Abdul Muttalib, nonno del profeta Muhammad, la pace sia con lui, che non ne aveva avuti, chiese al Signore di donargli 10 figli maschi, promettendogli che quando loro sarebbero cresciuti, ne avrebbe sacrificato il migliore per Dio. Il Signore esaudì la sua preghiera e quindi gli diede 10 figli maschi. Lui, dopo 10 anni, decise di realizzare la promessa fatta a Dio. Avendo sorteggiato tra i suoi figli maschi, scelse tra di loro Abdullah, il miglior giovane della Mecca. Lui doveva quindi essere sacrificato. Abdul Muttalib, pur provando un forte senso di tristezza nel suo cuore, si affidò a Dio ed andò alla Kaaba per eseguire il sacrificio. O mio Signore, sono venuto alla Kaaba per sacrificare il mio miglior figlio Abdullah. Tu mi hai fatto un grande favore e dopo tanti anni mi hai donato figli maschi, robusti e forti. Ed ora è arrivato il momento di realizzare il mio patto. Non mi lascio conquistare dalla tristezza e mi piego alla tua volontà. Abdullah, abbracciando i fratelli, li salutò uno per uno. Gli occhi dei suoi fratelli si riempirono di lacrime. Abdul Muttalib, però, con un'aria seria, armatosi di pazienza, stava a guardarli. Addio, Fratello, fratello. Quanto è difficile salutarti. Fratello, fratello. Quanto è difficile salutarti. Come faremo a sopportare la tua mancanza? Vorrei essere stato scelto al tuo posto. Abdullah, vieni qua. Fratelli, nostro padre mi chiama. Lasciatemi andare da lui. Sì, padre, arrivo subito. Abdullah salutò subito i fratelli e andò dal padre. Era immerso nei propri pensieri. Lui rispettava il risultato del sorteggio e non voleva protestare contro la volontà di Dio. Se Dio tanti secoli fa, quando Abramo voleva sacrificare il figlio Ismaele, nel momento dell'uccisione sostituì al figlio un montone, perché non lo può ripetere ancora con me? Anch'io, come Ismaele, sono innocente e vorrei superare questa prova divina con successo. E se il destino ha deciso che io debba morire in questo modo, è bene che sia. Anche se per me la vita è un dono divino, la morte non mi fa paura. Amer, dammi quella corda. Aspetti un attimo, signore. Questo cestino è un po' troppo pesante per un vecchio come me. Devo prima metterlo sulla terra. Amer, sbrigati. Non abbiamo molto tempo da perdere. Sì, signore. La trovo subito. Ma dove? Eccola trovata. Abdullah, senza dire nemmeno una parola, stese le mani verso il padre. Abdul Muttalib, però, per non vedere la bella faccia di suo figlio nel momento del sacrificio, andò alle sue spalle e legò le sue mani dietro la schiena. Poi si tolse il mantello e portò Abdullah verso il luogo del sacrificio. Abdullah, obbedendo a suo padre, lo accompagnò verso il luogo del sacrificio. Amer, apri il turbante di Abdullah. Sì, signore. Oh mio figlio, quanto è crudele e spietato questo mondo. O terra, come puoi nascondere dentro te questi capelli lunghi e neri e quel bel viso che splende come la luna? Oh mio caro figlio, per me la tua mancanza sarà più amara e dura della morte. O luce dei miei occhi, senza di te la vita non ha più senso per me. Abdullah! Oh Dio! Come la gente, vedendo le lacrime di quella madre addolorata, si commosse e si mise a piangere. Alcuni divennero talmente tristi che abbandonarono il luogo del sacrificio. Abdul Muttalib, però, senza reagire a ciò che stava succedendo intorno a lui, si rivolse verso Abdullah e disse: Abdullah, mettiti in ginocchio davanti alla pietra del sacrificio. Sì, padre. Amer, dammi quella sciabola. Ecco la sciabola, signore. Abdul Muttalib si inginocchiò vicino al figlio. Prese con una mano la testa di Abdullah. La larga lama della spada riflesse la luce del sole negli occhi di Abdullah e gli fece chiudere per qualche minuto i suoi begli occhi. Abdul Muttalib, togliendo lo sguardo dal figlio, si rivolse a Dio e disse: No, ora lo uccide, guardate la spada. O Signore della Kaaba, ora io e il mio caro figlio Abdullah siamo qui. Tu hai esaudito il mio desiderio ed ora tocca a me realizzare la promessa che ti avevo fatto. O mio Dio, io mi piego alla tua volontà e ti prego di aiutare me e sua madre a resistere con pazienza a questo grande dolore. Abdul Muttalib, per paura di non pentirsi della sua decisione, mise subito la lama della sciabola sulla gola di Abdullah Però, prima di tagliare all'improvviso, sentì il calore di una mano sulla sua spalla. Rivolgendosi verso chi gli aveva impedito di eseguire il sacrificio, vide Mughaira, figlio di Abdullah Makhzumi. Abdul Muttalib, non sacrificare tuo figlio. Tu non sai che puoi realizzare il tuo voto pagando una certa somma di denaro. Sì, certo. Questa è una tradizione antica e molto usata dagli arabi. Perché anche in questo caso non la usiamo. Ma guarda un po', uccidilo. Sì, certo, giusto così, deve farlo. Ma cosa mi stai dicendo? Vuoi dire che per l'amore di mio figlio io debba rompere la promessa che avevo fatto al mio signore? No, mai. Sì, ma certo, è così. Io mi piego sempre alla volontà di Dio. Oh, figlio di Hashem, tu con questo strano voto che hai fatto stai stabilendo una nuova tradizione tra gli arabi. E ora in poi gli altri seguendoti per qualsiasi cosa sacrificheranno i loro figli maschi. E così man mano il numero degli uomini nella nostra tribù diminuirà. Ma tu non sai che avere un figlio maschio è una ricchezza e un grande onore per un arabo? Finché c'è un'altra soluzione, non ti lasceremo sacrificare tuo figlio. Certamente deve fare così, ha ragione. Abdul Muttalib, tu sei stato il nostro esempio di saggezza e maturità, ma ora cosa ti è successo? La promessa che hai fatto agli dèi ti ha trasformato in una persona irrazionale. Secondo la tradizione araba, tu puoi sostituire a tuo figlio il pagamento del prezzo del sangue per l'uccisione di una persona, però io non capisco perché resisti contro questa proposta. Ma come sai che la volontà di Dio è quella di sacrificare tuo figlio? Magari il tuo Dio è più crudele e spietato di noi uomini? Abdul Muttalib, io sono lo zio del ragazzo. Se sarà possibile pagare il prezzo del sangue, io e tutta la tribù di Banu Makhzum siamo pronti a dare tutto quello che abbiamo. Ma io... Abdul Muttalib, ascolta la parola del tuo Mughaira. Se non mi sbaglio, tu non avevi fissato una data precisa per realizzare il tuo patto. Quindi io ti consiglio di aspettare ancora qualche giorno. Forse così possiamo trovare una buona soluzione. Possiamo rivolgersi ai sacerdoti. Loro possono aiutarci in modo imparziale a trovare una soluzione. Sì, io ne conosco una. Lei si chiama Sajja e vive a Yathrib. Sono sicuro che ci può aiutare. E va bene. Mi sta bene, ci recheremo da lei. Sì, evviva! Giusto così, bene, bene, bene, bene, va così. Abdul Muttalib, insieme ad alcuni uomini della tribù, andò a Yathrib per trovare quella donna religiosa. Il loro viaggio durò circa 10 giorni. Appena arrivati a Yathrib, lui andò da un suo parente che abitava in quella città, e solo il giorno dopo, insieme ad altri suoi compagni, andò da Saggia. Abdul Muttalib, io ti conosco bene. Tu sei il capo maggiore di Quraysh. Dimmi perché sei venuto qui a trovarmi. Io ho chiesto a Dio di darmi 10 figli e dissi che se mi avesse dato 10 figli maschi, quando sarebbero cresciuti, ne avrei sacrificato il migliore. E oggi è arrivato il momento di realizzare questo patto. Noi siamo venuti qui a chiedere se, invece di sacrificare mio figlio, esiste un'altra soluzione. Saggia, che sembrava una donna saggia e intelligente, mise la tora sullo scaffale. Li guardò tutti un po' e chiese: da voi quanto è il prezzo di sangue per l'uccisione di una persona? 10 cammelli? Abdul Muttalib, sorteggia tra tuo figlio e 10 cammelli. Se esce il nome dei cammelli, sacrificali al posto di tuo figlio. Però, se Abdullah viene scelto, aggiungi ancora altri 10 cammelli a quelli precedenti e ripeti il sorteggio. E se anche questa volta il nome di mio figlio viene fuori, che faccio? Come ho già detto, aggiungi ancora altri 10 cammelli a quelli precedenti e ripeti il sorteggio. Fa così fino a quando il sorteggio ti indicherà i cammelli. Ma così? Abdul Muttalib, fidati di me e fa come ti ho detto. Quando tornammo alla Mecca, feci come aveva detto quella donna religiosa ed uscì fuori il nome dei cammelli, quando il numero di questi arrivò a 100. Ripetei ancora il sorteggio ed anche questa volta uscirono i 100 cammelli. Così non avevo più dubbi sul fatto che anche Dio era soddisfatto di quello che volevo fare. E lo stesso giorno li feci sacrificare tutti insieme. Abdul Muttalib abbracciò con affetto suo figlio Abdullah, poi lo guardò fisso negli occhi e disse: Abdullah, tu mi sei molto caro. Se avessi dovuto dare tutta la mia ricchezza finché tu rimanessi vivo, io l'avrei fatto senza esitare. Voi, miei figli, siete la mia vera ricchezza. Padre, mi dispiace davvero, sono mortificato. Voi per me avete perso tutti questi soldi, i cammelli, la ricchezza, tutto quello che... Ah, non pensarci più. Ora tu devi pensare solo ai bei momenti che ti aspettano in futuro. Devi pensare alla tua fidanzata Amina. I tuoi fratelli stanno organizzando i preparativi per il tuo matrimonio. Abdullah arrossì dalla vergogna. Abdul Muttalib, sorridendo, lo abbracciò ancora più forte. Amici, siamo giunti al termine di questa puntata. La prossima settimana, insieme a voi, sentiremo la storia del matrimonio tra Abdullah, padre del profeta dell'Islam, la pace sia con lui, e Amina. Noi e di radioascoltatori. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Dio, il clemente e il misericordioso. Eccoci di nuovo insieme, cari amici, per cominciare un altro proprio appuntamento con Angolo della Posta. Anche un saluto caloroso da parte mia e benvenuti alla rubrica che è dedicata interamente ai vostri messaggi. A tra poco. Allora, cari amici, vi parla Sohail e mia collega, Shima, che vi terremo in compagnia per circa mezz'ora? No, solo più? 15 minuti, no, di meno, 15 di meno, minuti. Mi dimenticavo. Una sì, volta mezz'ora. Una volta era mezz'ora, adesso sì. Che io, dopo una lunga assenza, sono tornato, adesso mi devo ancora esercitare per essere, diciamo, aggiornato per il programma di noi radioascoltatori. Sì, appunto, ti volevo chiedere da quanto tempo, cioè, sei stato assente? Penso, Shima, che quanti da... mesi? Come? Quanti mesi? Un anno? Io penso che sì, circa un anno, perché sai, perché io mi sono dedicato di più alle rubriche di attualità, di politica, eccetera, sì, eccetera, appunto. Quindi... ho lasciato, diciamo, il timone di questo programma a Dawood, che un po' serio. E a te, che avete veramente magistralmente condotto fino ad ora questa rubrica. Allora, novità? Novità, ma tante novità, quali piace sapere? Io volevo, con il tuo permesso, cominciare, sì, certo, proprio il programma di oggi con una bellissima sorpresa che... In che senso bellissima? Adesso ti spiego, che comunque leggendo questa sorpresa sarai tu a, diciamo, a esaminare, a dire perché, a concludere perché. Allora ti dico, un nostro amico messicano, sì, José Geronimo Zamora. Ecco, hai, sì, visto, tu lo conosci benissimo, sì, perché è un fedelissimo tu sei tu amico. Che scrivi il programma Lezioni di Farsi. Lui ci ha mandato una bellissima cartolina del suo paese. Ah, lui ci ha inviato. Sì, sì, si chiama di Messico? Questa, come? È di Messico una cartolina. Sto leggendo una località, penso Palazza Central der Bernal, sì, la zona, la località si chiama Bernal, ma il fatto sorprendente è veramente una bellissima sorpresa che lui ha scritto il suo, diciamo, messaggio in farsi, in persiano. Sì, lui è veramente bravo, infatti, sì, l'unico, persiana. Diciamo, l'unico errore completamente perdonabile, che ha scritto la parola foto in persiano ax, con alef e con non con ein, perché che ci bello. Sono delle cose ancora un po' difficili, ma veramente, no, perdonabile. Lui ha ragione, ecco, non è ha fatto un capolavoro, secondo me, ascoltando un programma lui è riuscito a scrivere proprio 7 frasi in persiano bellissime. Ci puoi leggerle? Ecco, sì. Lui ha scritto Salam Dustan Aziz, cioè Salam, salam, salutiamo cari amici. Noruz Mubarak, lui ha voluto congratularsi con noi per il Capodanno iraniano il 21 marzo. Poi ha detto che Sole Jadide Hezar 392, cioè anno iraniano del calendario 1392. Hol shoma chetorid? Bellissimo, anche se un po' di errore esiste, sì. Ma veramente bravo José. E poi dice che questo è in axe Kuhe Bernal. Questo lui ha spiegato che questa monte che raffigura sulla cartolina è, si chiama Bernal. E poi dice che non ha detto Bahor... dove si trova, non ha detto no, ha detto che man fasle Bahor dustara, traduci tu. Cioè dice che mi piace la primavera. Sì, fasle Bahor zibotarin ast, è la più bella stagione secondo infatti. Non solo José, ma di molte persone che veramente... Anche secondo me. Anche secondo te, a me piace di più l'inverno, la neve. Ecco, volevo dire questa sorpresa bellissima. Caro José... Geronimo, José sì. Geronimo Zamora Mata, ti manderemo senz'altro materiale che ci hai richiesto, ti ricambiamo tutta questa gentilezza e saluti che ci hai mandato. Abbiamo già anche inviato un premio a questo nostro amico messicano. Ha già ricevuto un premio? Sì, mi sembra, ecco. Se non mi sbaglio, dobbiamo chiedere beato lui. Poi sicuramente riceverà altri materiali come QSL eccetera eccetera e cerca di essere ancora in contatto con noi. Sì, lui veramente è un fedelissimo amico, però che ne dici di un po' di musica e poi sono torniamo. D'accordissimo. Allora, prima di continuare con i messaggi dei nostri ascoltatori, volevamo parlare un po' dei cambiamenti che sono successi nella nostra radio. Sì, io speravo che lo facesse Dawood durante il programma precedente, che tu non c'eri, io sì. E Dawood abbiamo condotto. E lui, tu è Dawood? Sì, lui era al telefono, sì. Ma si è limitato soltanto ad annunciare qualche novità per quanto riguarda il programma. Come hai detto giustamente tu, ci sono stati dei cambiamenti. Dawood, tanti cambiamenti. Sì, Dawood adesso si occupa di più dei suoi studi universitari e poi al proprio... Cioè vuoi dire che se è stata cambiata sì, la direzione di Radio Italia, adesso c'è un altro, diciamo, responsabile, ma capo. I programmi sono non cambiano nel senso del contenuto, ma di forma sicuramente cercheremo come sempre di migliorare. E io per ora farò proprio questo programma, mi devi sopportare ancora. Ma che dici sopportare? Per quanto tempo non lo so. Poi, per quanto riguarda messaggi, lettere, tu hai qualcosa da sì, leggere? Sì, io volevo ringraziare il nostro amico Aldo Tedi che è da anni che ci accompagna e ci invia i suoi rapporti d'ascolto e anche questo è dell'aprile 2013, però purtroppo lui non ci ha lasciato nessun commento. Poi vediamo, un altro rapporto d'ascolto è di Gianangelo Rosati, però il suo rapporto d'ascolto è dettagliatissimo, è del, vediamo la data, del 28 aprile 2013. 28 aprile. E poi Paolo Maggini, che lo salutiamo, proprio in questo momento per averci mandato un messaggio che di più di un messaggio, un suo parere su una notizia, purtroppo su una notizia tragica di due ragazzi che hanno deciso di togliersi proprio, di suicidarsi per perché? Il lavoro, per erano disoccupati. Ah. Lui su questa notizia ha scritto: con queste tragedie gli unici che propongono soluzioni serie e durature sono la Repubblica Islamica dell'Iran e Radio dell'Iri. Ti ringraziamo Paolo Maggini, speriamo veramente di un presto miglioramento della situazione economica anche, perché diversi, veramente diverse notizie brutte come queste possono essere veramente, diciamo, bloccate, impedite con un miglioramento della condizione di vita dei civili. Ma secondo te questa situazione, questa terribile situazione economica, secondo te migliorerebbe? Purtroppo io, Shima, devo essere franco, io non vedo veramente un bel orizzonte, almeno per un futuro abbastanza vicino, perché a decidere purtroppo le cose economiche, la situazione economica non sono i popoli, ma i banchieri, le cose come, diciamo, fondo monetario, eccetera, eccetera. Allora, un altro messaggio. Sì, da parte... io volevo parlare di una notizia che avevamo già inserito sul nostro sito con questo titolo: Afghanistan, 74 studentesse intossicate, un possibile caso di avvelenamento con gas. Un utente con nickname, cioè la nostra ascoltatrice Daniela Roccella scrive: nel mentre gli americani fanno fanno asse con Israele per dar fastidio ad Ahmadinejad e al suo nucleare, che peraltro in Iran viene utilizzato abbondantemente, quale risorsa energetica, come la risorsa energetica primaria di quanto hanno invece compiuto gli atlantici sui territori da egemonizzare, se ne è sempre parlato troppo poco, di contaminazioni, avvelenamenti di terra, di acqua, di aria e di esseri umani ed eccetera. Poi lei finisce così il suo commento. Poi ancora veramente ha fatto una bella analisi questo nostro, come si chiama? Daniela Roccella. Daniela. È veramente bella, bello vedere i nostri amici così precisi, così ben informati, che veramente sanno degli sviluppi sia regionali che internazionali. Poi volevi sì, continuare. Un altro messaggio un altro messaggio è questa: una impopolarità record per Hollande, il 75% dei francesi non soddisfatti. Ugo Lazzara scrive: l'Europa sarà infiammata in ogni dove dalle rivoluzioni, i popoli contro i tiranni, servi dell'usocrazia sionista. E quando parlavo proprio degli amici che analizzano, che guardano e commentano, uno di questi è se come Ugo. Ma io volevo ringraziare Francesco Morsilli per un rapporto d'ascolto. E alla fine lui ha chiesto anche, diciamo, una QSL di conferma, che senz'altro questo nostro caro amico Francesco riceverà presto. Forse già anche ricevuto? Chissà. Forse sì, forse anche già ricevuto, ma comunque dovevo annunciare sia il suo nome che il suo diciamo rapporto d'ascolto che è stato ricevuto da Radio Italia. Sentiamo un po' di musica e torniamo tra poco. Ultimamente l'Iran purtroppo è stato teatro di diciamo numerosi terremoti, sì, numerose purtroppo scosse che hanno colpito la popolazione del sud e del sud-est, e in questo centro anche, diciamo, un po'. Sì, e su questo tema abbiamo ricevuto molti messaggi di solidarietà da parte dei nostri amici ascoltatori. Io come diciamo un esempio di tutti questi messaggi ho scelto quello di Agito Melloni, che dice: cari amici, seguo il diffondersi delle notizie che riguardano il dramma che ha colpito una parte della popolazione iraniana quando la natura si scatena con la ferma nessuno. Ma la cosa ancor più dolorosa è che nella maggioranza dei casi ad essere colpite sono le realtà più povere ed isolate. Le autorità non hanno dubbi che cercheranno di alleviare le sofferenze. A queste persone esprimo il mio sostegno morale, e a voi tutti, cari amici, confermo la mia amicizia solida e duratura e il mio fedele ascolto delle vostre programmazioni. A presto e grazie per tenermi aggiornato su quanto accade nel vostro meraviglioso paese, Agide Melloni. Allora, ringraziamo Agide, e ancora a proposito dei messaggi di solidarietà a proposito del terremoto in Iran, Franco Fermi scrive: le mie più sentite condoglianze a voi e a tutta la vostra nazione. Franco Fermi da Milano. Possiamo andare avanti o dobbiamo salutare? No, non abbiamo più tempo e dobbiamo andare per saluto finale. Allora, amici, dobbiamo salutarvi. Allora, io vi annuncio l'indirizzo di Radio Italia, Area World Service, Radio Italia, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran. E amici, inviate le vostre email a questo indirizzo italian.irib@gmail.com. Grazie per l'attenzione. E a presto. Ed in conclusione i principali titoli del nostro notiziario. È terminata ieri a Teheran l'operazione delle registrazioni degli aspiranti candidati per le prossime elezioni presidenziali iraniane di giugno. L'Iran ha espresso soddisfazione per la proposta della Russia di organizzare a Ginevra una conferenza internazionale sulla Siria. Decine di persone sono scese per le strade di Reyhanlı nella provincia di Hatay chiedendo al premier turco Erdogan di dimettersi a seguito degli attentati in questo piccolo villaggio turco al confine con la Siria che hanno provocato la morte di 40 persone. E i musulmani del mondo hanno condannato le aggressioni di Israele contro la Siria. Il tempo a nostra disposizione è terminato, vi ringraziamo per averci seguito fin qui, vi diamo appuntamento alla prossima edizione, ma nel frattempo vi invitiamo a visitare anche il nostro sito italian.irib.ir. Ancora una volta grazie per averci seguito fin qui, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.